Pietrasonica 2015, Psychedelics Stoner Rock Festival, 7ª edizione, 31 luglio e 1 agosto, Parco Ex Colonia di Osoppo. 2 giorni di sano rock and roll in mezzo al verde. Il parco delle Ex Colonie sarà magica cornice per 11 sconvolgenti bands del multicolore circuito psichedelico. Oltre a ciò, cibo e bevande a prezzi onesti, mercatino con gadgets e memorabilia, la nostra postazione serigrafica per imprimere su ciò che volete l'arte sonica 2015 e tanto amore! Venerdì 31 luglio, apertura ore 18 e inizio concerti ore 21. Sabato 1 agosto, dalle 15, pietra del disco, per saziare la vostra scimmia di vinile. E inizio concerti alle ore 18. Pietrasonica 2015, 31 luglio e 1 agosto, al Parco Ex Colonie, Osoppo. Organizzato da Pietrasonica con l'aiuto di Catastrofe Records, Ibrida, Friul Adventures, Radio De Furlane, Perchele, stonerrock.eu ed etichetta Sciluti. Per info www.pietrasonica.com. Siamo qua in compagnia di Federico e del Piotre per presentare la nuova edizione di Pietrasonica 2015. Quindi cominciamo magari un po' a raccontare le novità di questa edizione, chi ci sarà, chi non ci sarà. Io inizierei unicamente a dire che quest'anno siamo arrivati a un traguardo, che è la 7ª, che poi io, credendo un po' anche nella magia dei numeri eccetera, il 7 è un numero magico, quindi in teoria dovrebbe capitare qualcosa di magico in questa edizione, che fondamentalmente non ha, per lo più, a parte qualche piccola novità, praticamente ha lo stesso menu del precedente, cioè gran gruppi scelti con oculatezza e cercando di dare un ventaglio ampio, un parco che è una cornice verde meravigliosa, che per chi vuole, oltre che la musica, anche un momento di tranquillità, e come sempre un'offerta enogastronomica quasi a chilometro zero, se non a chilometro zero, con un occhio, diciamo, alla qualità e uno anche a tutti i gusti, esattamente, ma soprattutto anche all'uscita, diciamo, alla tasca, e soprattutto anche a tipo a tutti i gusti, sia chi è onnivoro, sia chi ai vegani, che aumentano ogni anno, e bene o male quella. E vegetariani, come è stato scritto. Esattamente, beh sì, ogni anno si cerca di fare qualcosa di più, di differente. Abbiamo anche dall'anno scorso una postazione serigrafica, la nostra Eleonora che stampa il logo, l'arte 2015 su cosa, qualsiasi cosa voglio, le portate, mutande, canottiere, reggiseni, tutto. Mi sarà serigrafato. È un coprivate, lo posso portare io che l'ho appena cambiato. Come nomi chi abbiamo quest'anno? Quest'anno abbiamo, come oltre al fatto che comunque tutte le band nel loro piccolo ci stanno dentro, come nomi grossi abbiamo l'Ira del Baccano, una formazione romana dedita a una strana miscela particolare e personale di progressive, doom rock, cose del genere, strumentali. Abbiamo gli Yama dall'Olanda, abbiamo i Sandelica, che sono una formazione storica del panorama space rock della Gran Bretagna, sono gallesi, attivi da un sacco di tempo, con una pubblicazione sterminata, e sono i nostri fiori all'occhiello, ma comunque abbiamo gente, soprattutto abbiamo un parterre de rois anche a livello italiano, non da poco, anzi abbiamo scelto proprio, anche non propriamente come facciamo sempre, non propriamente solo stoner, per offrire proprio uno spaccato di ciò che è proprio la piccola ma viva realtà anche del nostro stivaletto, che sembra arretrato, ma in realtà se uno legge tra le righe, guarda sotto diciamo il ciarpame, sotto i riflettori, c'è comunque sempre stata qualcosa che si muove, e ultimamente sempre di più. Sì, arretrato sotto certi punti di vista, ma a livello musicale diciamo che... A livello musicale ci sono le eccellenze, sì. Ahimè non ci sono i numeri ancora, ma le eccellenze ci sono. L'importante è quello, la qualità più che la quantità. Ecco, a livello internazionale abbiamo detto i Sandelic, forse sono i... No, quelli sono i più noti. I più noti dell'evento. A parte il luogo storico che ha ospitato in passato anche il Sunsplash. Ah, No, in realtà, nel parco. No, il parco delle colonie di Osopo, che veramente sì, il parco delle colonie di Osopo, che diciamo si trova appena fuori dal paese, ed è un ex colonia eleoterapica, ed è un luogo che è stato rimesso a posto, se non a nuovo, dall'associazione Friuli Adventures, che è l'associazione che gestisce il posto e che ci dà la disponibilità, insomma. E quindi grande merito a questa associazione, che ha preso questo luogo dal comune, che visto che è un luogo demaniale, e lo sta gestendo in maniera impeccabile, lo sta curando, e quindi è un super luogo in cui si può fare questo tipo di cose, insomma, tipo di concerti, di feste, di iniziative. E in realtà il Sunspiel lo facevano nel Rivellino, che è a 50 metri linea d'aria praticamente. Comunque è un luogo diverso, Un luogo diverso, però il comune, insomma, dà una mano anche a questi avvenimenti che, diciamo, possono portare un po', no? No, allora il comune ha dato in gestione quest'area all'associazione Friuli Adventures, la quale gestisce, dà in affitto alle varie associazioni, ai vari privati, per fare le feste, per fare concerti, per fare iniziative praticamente. E quindi questo, diciamo, chi gestisce quella colonia lì è l'associazione Friuli Adventures, che appunto si è resa disponibile a darlo a tutte le persone che ne hanno bisogno praticamente. E a noi nel momento in cui ne avevamo più bisogno. Ormai 3 anni fa. Ci eravamo trovati a un mese dalle scadenze, tutto pronto, senza un posto. Ed è bastata unicamente, diciamo, quello che è la ricchezza, se si può dire, di quello che poi è diventata l'associazione Pietrasonica dal 2013, che è quella di essere un gruppo, diciamo, disomogeneo, che sembra una partenza col piede indietro, in realtà no, perché siamo comunque tutti un po' differenti, ma comunque tutti in una lunghezza d'onda. Sono bastate 2 telefonate per trovare un posto un mese prima. Sì, grazie anche a Franco, esatto. E grazie a tutta la intelligence di questo gruppo Patchwork, che poi l'anno dopo si è costituito in associazione. Sono 2 anni che ci siamo e siamo anche sulla carta Pietrasonica. Ma in realtà quello che siamo è, come ho detto, un gruppo di persone differenti, uniti dalla passione, non propriamente per lo stoner o per la musica, ma proprio la passione di fare le cose per il piacere di farle, né per un introito, né per fare i bifighi nel bar del paese, proprio per dare 2 giorni di musica, di divertimento, di benstare per tutti, diciamo, perché non c'è nulla di elitario. E per fortuna che questo viene capito. Ogni anno sto facendo gli scongiuri. Abbiamo avuto delle presenze in crescita, che non è da tutti, proponendo delle cose semplici, dalla musica al mangiare al semplice stare insieme, e si vede che funzionano, vede che la gente ha bisogno, e questo è quello di cui sono più grato io, a caso e al lavoro insieme. E chi non conosce la psichedelia può allargare i propri orizzonti e conoscere realtà nuove, magari non molto conosciute per il grosso pubblico, ma bisogna avere la volontà anche di espandere appunto le proprie conoscenze. Ma quello è il bello. Questo è il bello. Il bello del lavoro, si può dire il lavoro del nostro festival in 7 anni, è stato questo. Che alla fine cosa è successo? Cioè, partite da un'intuizione pazza del sottoscritto, che è stata accolta dagli amici e dal gruppo. Cioè, era come portare tipo una cosa che non si conosceva bene in questo territorio, perché alla fine non è una cosa che ha preso, è una cosa che viene, diciamo, tramandata e trasmessa in tutti i media, se non quelli di Nick, come potrebbe essere proprio la radio del Furlame stessa. Ma la cosa ancora più bella è stata che c'è gente che lo ha scoperto grazie a questo. E che torna. Come il sottoscritto. Prima del festival non conoscevo nulla di questo genere musicale. Io mi sono buttato nell'aiutare organizzare questo festival, ci sono rimasto dentro e quindi adesso sono ancora qua perché comunque siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo vario e che si muove cercando di creare questa occasione annuale per tutti quanti, ecco. E vorrei sottolineare appunto il fatto che noi non abbiamo nessuno sponsor e che quindi è grazie alle persone che partecipano, che vengono ad ascoltare. Che mettete tempo e voglia. Tempo e voglia. Sì, per fortuna quest'anno siamo riusciti a non mettere soldi di tasca nostra, perché comunque appunto grazie agli ingressi dell'anno scorso siamo riusciti a pagare i vari permessi e le varie spese che ci sono per l'organizzazione, e quindi è proprio grazie alla partecipazione delle persone, pagando un modico prezzo di 5 euro e partecipando a questo festival, anche semplicemente facendo festa, permette al festival stesso di andare avanti, ed è questa la grande cosa, senza che chiediamo contributi a comuni o senza chiedere sponsor. Fino adesso ce l'abbiamo fatta ed è grazie appunto a tutti quanti, e questo secondo me è la bellezza anche di questa, una cosa che si rigenera ogni anno e che cresca in modo esponenziale, insomma. Ma dico la verità, se resta così io sono contento, siamo contenti e va bene così, che poi che sia quel che sia, insomma, dopo si vedrà. Basta che non andiate in Spagna anche voi, perché se no... È un po' difficile, no, più che altro una cosa che ci terrei a sottolineare è che proprio grazie a questo, grazie a quello che dicevo prima, a questo lavoro, perché alla fine è un lavoro, cioè l'equipe di 8 mesi per 2 giorni e non solo, la cosa si è fidelizzata ed si è anche un po' allargata. Sai, come quando tiri un sasso in uno stagno, che crede a un cerchio perché tanti cerchi. E meno male il nostro piccolo nome, che non è nient'altro che un festival organizzato da una cricca di amici, da qualche anno sta iniziando ad essere nominato in Italia e in Europa. Tant'è che una cosa che si è vista noi per primi, vedendo unicamente da piccoli segnali come sono tipo la gente che chiede di suonare. Noi l'anno scorso abbiamo ricevuto 60 richieste da gruppi, sia locali, 60, che italiani che dall'estero. Vuol dire che chi è venuto si è trovato bene, l'ho detto agli amici, che l'hanno detto agli amici, e ogni anno ci scrivono 3-4 gruppi dall'Olanda, dalla Germania, cioè per dire, poi da fuori. Cioè, sono quelle cose che ci fanno rendere orgogliosi di farlo, per dire, cioè che non è come i festival che vai lì e ti trattano in maniera sterile, devi pagare o ti guardano anche in faccia, da noi è un po' differente, sì. Comunque bisogna sottostare alle norme che in me ogni anno crescono e si moltiplicano, però c'è anche la grandissima soddisfazione di avere un risultato sincero, non so come dirla meglio. Sì, sentirsi proprio tra amici, sì, una cosa che è difficile da spiegare, ma sai, difficile spiegarla a parole, sì. Però è una grande soddisfazione. Io spero che quest'anno comunque succeda come quello che è successo gli altri anni, senza sperare in meglio, speriamo, se succede quello che è successo gli altri anni sono già felice. Bene, facciamo un appello, dunque, per il 31 di luglio, 1 agosto. 31 luglio, 1 agosto, al Parco delle Colonie di Osopo, vi aspettiamo, venite, portate felicità, gioia e amore. Esatto, le tende. Perché una cosa che mi ci terrei a specificare è il fatto che il parco si presta benissimo a sito camping. Ci sono le docce. Ci sono i bagni, quindi non si paga niente sopra i 5 euro al giorno, che penso ci renda tipo il festival anticrisi per antonomasia, e soprattutto vorremmo incentivare il campeggio, perché quando fai festa non puoi partire per i pericoli, quindi arrivi lì tranquillo, ti metti la tendina, fai festa fino alle ore che vuoi, dormi, poi ti risvegli e ne fai un altro. E chi viene lontano, da molto lontano, può conoscere anche il Friuli. Esattamente. una zona bellissima del Friuli, anzi da valorizzare, perché... per spezzare i pomeriggi afosi, ci sono tante belle locations in cui fare il bagno gratis. Il fiume Tagliamento, il fiume Leale, ce ne sono, quindi il lago di Cavazzo, basta chiedere a noi che siamo lì i pomeriggi afosi e tranquillamente si può suppellire alle affollate località balneari a chilometro zero e anche a costo zero. Cosa volete di più? Venite 31 luglio 1 agosto Pietrasolica, parco dell'ex colonia di Osopo. Vi aspettiamo. Bene, grazie a Piotr e a Federico.